Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Chi non lavora non fa l'amore. Ogni volta ti porto una foto dell'Isa che era gialla e rossa quando lavoravo da Burghi in Galleria Milano a fare le patatine fritte e i panini, cosa che ho fatto per qualche mese per pagarmi l'università. Mi son seduto, niente c'era in tavola. Forse volta ti porto una foto della mia divisa che era gialla e rossa quando lavoravo da Burghi in Galleria Milano a fare le patatine fritte e i panini, cosa che ho fatto per qualche mese per pagarmi l'università. Non ce la fa più. Il ricordo del tempo di Burghi qual è? Possiamo una parlarne? Fatica della miseria, una fatica della miseria. Io alcuni ragazzi li incontro ancora oggi. Lavorare 8 ore al giorno per portare a casa ai tempi 700-800 mila lire, finendo alle 2 della mattina, avendo a che fare anche con la maleducazione della gente, perché a buttare via il bicchiere vuoto o a raccattare un fazzoletto per terra non occorre tantissimo, la gente non ci pensa. Se fai certe esperienze, se lavori in certe maniere, se consegni le pizze come ho fatto, se monti i cartelli stradali, poi dai un valore alla fatica, al lavoro, al denaro, al sudore e quindi rispetti quelli che lavorano e non ti permetti di prenderli in giro. Allora, qualche mese a Burghi mi sono segnato a fare patatine. 700.000 lire al mese e poi consegnato qualche pizza. No, perché Matteo Salvini, sapete, è un po' criticato perché si dice non ha mai lavorato in vita sua, un po' come Renzi, nel senso ha sempre vissuto di politica. Non sto dicendo che la politica non sia un lavoro, però il lavoro quello. E allora eccolo qua Salvini, vi porto la foto in divisa quando lavoravo con le patatine fritte a Burghi. Burghi è come dire l'antesignano di quello che poi è il McDonald's adesso, no? Cioè l'antesignano è un altro brand, ma non c'è più Burghi. Dove è finito Burghi? Chi è che si è magnato Burghi? Non lo so, McDonald's forse, Burger King, dico. Vabbè, stiamo facendo un po' di pubblicità neanche poco occulta, voi lo sapete, ma questa è 24 mattino, sono le 6:32 minuti, buongiorno, benvenuti, è venerdì, questa è la notizia, la straordinaria notizia, ed è il venerdì in cui si chiude la 106esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Attendiamo con grande gioia, titolo oggi del Messaggero, aspettando l'abolizione, le province assumono a lei, però dicono che sono abolite. Io dico sempre così: fate toc toc, bussate alla prima sede della provincia, toc toc, se vi apre qualcuno vuol dire che non sono ancora abolite, ci sono. Comunque, eccoci qua, c'è Carmelo Lauricella in regia, l'Alpino ormai l'abbiamo rottamato, dove l'abbiamo mandata? La donata degli Alpini, ovviamente, chissà se ci farà un report, un resoconto di tutto quello che sta bevendo. Non ce la fa, ma è già, non riesce a mettere, non sa neanche digitare, esatto, non si ricorderà neanche di essere stata la donata degli Alpini. Evviva l'Alpino Peter Biscapè, saluto Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Parlamento è qui che può aprire, anche perché oggi abbiamo due straordinari ospiti. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo. Non sono il ministro Boschi che beve il caffè, ma sono intanto un grandissimo ritorno colei che prima di andare a Radio Capital a condurre il GECO la farfalla dalle 9 alle 10, credo fino alle 10, non so. Vabbè, Vladimir Luxuria, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Fino alle 10? No, andate avanti. Fino alle 10, confermo, l'accendo. Tra l'altro, ma tu lo sai che sarebbe Vladimir Luxuria, cioè, in russo si dice Vladimir. Sì, però... etimologia, cioè proprio nell'accento, l'accento russo va su Vladimir, esatto, che vuol dire la potenza della pace in russo. Oh, oh, assolutamente. E vabbè, insomma, Vladimir, però a me piace Vladimir, Vladimir Luxuri, adesso non facciamo i super linguisti, ma sì, mettiamo i puntini, vabbè. E qua invece, prima di diventare, poi non la vedremo più, non la saluteremo più, non ci rivolgerà più la parola, prima di diventare direttrice dell'unità o direttore, non ho capito, Chiara Geloni, eccola qui la nostra Chiara Geloni, buongiorno, buongiorno. Direttamente Milan Scherza, lo dico per quelli che fossero in ascolto. Milan Scherza, non si sa. Milan Scherza mi prende in giro tantissimo. Ma no, vabbè, subito a smentire, non lo so. Vabbè, da Carrara con furore, eccoci qua con Chiara Geloni. Allora, intanto avete sentito, abbiamo già dato questa notizia, Vladimir, smentiamo questa cosa che Salvini non ha mai lavorato, Non mai lavorato? Ha lavorato in commissione in Parlamento Europeo? Oppure da Burghi, non ho capito bene. Appunto, no, siccome non ha mai lavorato prima di fare politica, invece faceva le patatine fritte da Burghi. Però se si assentava un giorno quando doveva fare le patatine fritte, col cavolo che gli davano la paghetta. Mentre diciamo che qualcuno può, diciamo, farla franca se si assenta alle commissioni, lavora al Parlamento Europeo. Eccola lì, eccola, subito polemica, sì, effettivamente lì mi sa che al Burghi doveva stare ben stretto alla friggitrice, non è che... No, vabbè, però, insomma, questi politici che non lavorano, ma io non me lo vedo tantissimo, però, per qualche mese il buon Salvini che frigge le patatine, però evidentemente è una cosa che ha fatto. Tu che alla Geloni sapevi di questo passato recondito del... Non mi appassiona molto questa storia che i politici non lavorano, quindi non sono d'accordo. Io è vero, sono già stato polemico. È un discorso un po' da bar che fanno in tanti, magari anche senza pensarci. Siamo al Parlamento, quindi possiamo farlo proprio con cognizione di causa. Insomma, è il bar più radical chic d'Italia, peraltro. Quindi. Insomma, io penso che poi Vladimir lo sa, insomma, chi fa politica si fa anche un bel mazzo se è uno che lavora, che ci tiene a tenere i contatti con quelli che l'hanno eletto. Sì. Dopodiché è vero quello che lei dice, cioè che Salvini non sta dimostrando una grande abnegazione nel suo lavoro come parlamentare europeo, che dovrebbe essere il suo primo lavoro. È vero che fa un altro lavoro. Ce l'avete con Salvini. Non per questo, almeno vi ho stuzzicato su Salvini. Ma però Vladimir Luxuria, che ha fatto anche la parlamentare, allora ci può dire, si lavora, è un lavoro di quelli proprio, come dire, è un lavoro? È stressante? Dipende da come lo prendi, cioè se per te il Parlamento è un posto solo per accumulare potere o se invece credi davvero di poter raggiungere certi obiettivi, allora lavori. Però io che ho anche fatto vendemmia, ecco, se Salvini ha fritto le patate, bella io questa. ho vendemmiato in Puglia, ovviamente. No, in realtà no, ho vendemmiato a Forlimpopoli. Non ci credo, io la cito sempre come città quando mi piace una città da dire, dico sempre a Forlimpopoli. Un giorno mi ha scritto da Forlimpopoli, ha detto ci piace questa cosa che citi sempre quindi esiste Forlimpopoli. Sì, esiste, Forlimpopoli ci ho vendemmiato, quindi a parte questo, diciamo che quello che misura veramente il lavoro di un politico è il lavoro nelle commissioni, perché le presenze al Parlamento, che sia quello italiano che quello europeo, a volte vengono usate anche per non penalizzare la paghetta, mettiamola così. Sì. Invece quello che veramente secondo me contraddistingue il lavoro di un parlamentare è la commissione, cioè la commissione in cui tu ti trovi, quindi è lì che si vede la redditività vera di un politico. Sì, è vero, in Parlamento poi alla fine si va a finalizzare i provvedimenti e quindi ha vendemmiato. E Chiara Geloni cosa ha fatto nella sua vita che non sappiamo? Perché ridi? Hai fatto, hai fatto qualcosa di sconcio? No. Non lo so. No. Effettivamente temo di non aver fatto nessun lavoro giovanile. Non ho mai fatto niente. Chiara Giuloni non ha mai lavorato in vita sua. Io facevo altre cose, cioè facevo molto. I dibattiti con Trebbia a 16 anni? No. Facevo la dirigente dell'Azione Cattolica, organizzavo campeggi. Portavo i ragazzi in montagna per una settimana, che anche quello è farsi un bel mazzo, ma facevo per volontariato, per così. Vabbè, ho capito. Non era un lavoro giovanile, quello non sì, ma non ti buttare così giù, nel senso che era un'azione meritoria. No, non ho vendemmiato. Non hai vendemmiato, ma neanche io ho mai vendemmiato. Ma è faticoso vendemmiare, Vladimir? È faticoso. La mattina bisogna svegliarsi molto presto, anzi proprio quando ancora è buio. Sì. Poi mi ricordo che ci caricavano e qui su ci sono. Un camioncino, sì. Faceva abbastanza freddo. E poi effettivamente, insomma, sì, ti fai un bel mazzo. Io ero un po' furba perché cominciavo a dire battute, a cantare, per cui ogni tanto, mentre gli altri vendemmiavano, io facevo un po'. Facevi un il po' vuoto, spettacolino. Il vuoto attorno a te, il vuoto attorno a te per cercare. Però effettivamente poi pesano, i cesti vini di uva pesano tanto. Insomma, temevo di spezzarmi le unghie a volte. Vino. Bella esperienza. Vino. E va bene. E questo lato nascosto di Vladimir Luxura non lo conoscevamo. Allora, io oggi parlerò alle 8:15 di questa storia degli impresentabili, nuova categoria inventata della politica. Gli impresentabili, non si capisce bene chi siano. Ancora, è passata un'ennesima giornata e non si fanno i nomi, li ha stabiliti, non so, il Fatto Quotidiano, una campagna di Saviano, però per esempio c'è anche questa, ha scoperto Repubblica, candidata nelle liste con Vendola, Vladimir Luxura, Vendola, c'è la sorella di un killer, ma giuro, oggi Repubblica, la sorella di uno che ha ammazzato in passato uno della criminalità organizzata, e questa sorella è stata anche intercettata a dire dovevamo sparare in faccia al PM, cioè, vabbè, ma al di là è chiaro che poi adesso è uscita questa vicenda e ci saranno le polemiche, il tema politico è ma chi diavolo controlla queste persone, cioè, è possibile davvero candidarsi e mettere in lista persone anche di questo tipo? Allora Vladimir e Chiara, due che Vladimir vai tu, che dici? Ma allora io sì, insomma, purtroppo non bisogna pensare che è la sommatoria che fa il risultato, perché a volte si pensa che più si mettono, un po' tipo l'arca di Noè, no? Mettiamo individui di tutte le specie nella mia lista, così ottengo il risultato salviamo, e vengo eletta. Quindi mettiamo un magistrato, due militari, ci metto quello De Mita, e ci metto quello che prima andava contro di me, e poi ci metto anche, che ne so, uno che ha dei problemi giudiziari, ci metto la sorella pure. Sì. Forse c'è un problema di controllo, sulle liste, sinceramente, perché poi non è che uno prima mette persone impresentabili, poi dice vabbè, però non le votate, no? Sì, no, questa è indipendentemente adesso da tutti, e quindi secondo me ci vuole maggiore controllo quando si fanno le liste. Assolutamente. Questo sì, ma Chiara, il partito, i partiti controllano. Partito, volevo dire questo. Allora, il PD ha un codice etico, sì. Non mi pare che gli altri partiti ce l'abbiano, però un partito lo dovrebbe avere. Ha funzionato molto in campagna. Ha funzionato molto in passato. Io Aspetta, perché arrivo. Se mi dai un secondo, ci arrivo. Sì. In passato alcuni candidati, anche dopo aver fatto le primarie, sono stati estromessi dalle liste delle politiche in nome del codice etico. È successo, diciamo, in anni passati. E sono decisioni dolorose. Tu dici, magari tu sei innocente, però finché non hai fatto il processo, salti un giro. Questo è il codice etico del PD. Poi in campagna cosa è successo? Allora, intanto diciamo che ultimamente questo codice etico viene applicato con un po' più di discrezionalità, lo vogliamo dire. Poi è successo che in queste regionali c'è una grande proliferare di liste civiche a sostegno dei presidenti. Ah, quello è un gran classico. È abbastanza una novità delle regionali. Di solito le liste civiche ci sono per i comuni, per le regioni l'aveva fatta Ambrosoli e Maroni, mi pare, alle ultime regioni, sì, della Lombardia. Adesso alcuni candidati presidenti ne hanno anche due di liste civiche. Mm-hmm. E queste liste civiche ci è finito un po' di tutto. Ora, qualcuno dice, ma è la lista civica, non è il PD. Ma allora, io credo che il PD dovrebbe avere a cuore di controllare con chi si sta alleando. Sì. Il candidato presidente dovrebbe controllare. Certo, insomma, comunque la traduco. Finché c'era Bersani andava tutto bene. Adesso che c'è Renzi. No, non andava assolutamente tutto bene. No, scherzo. È successo che in base al codice etico, magari anche se eri amico di Bersani, ti poteva capitare di non andare in lista. Vladimir, quando tu ti sei candidata, Vladimir, controllavano, ma c'erano le liste, non mi ricordo manco. No, forse no, non c'era. Allora, intanto vorrei precisare che se Saviano ha detto che nelle liste di De Luca c'è Gomorra. Vorrei tranquillizzare tutti che non c'è Sodoma, perché hanno Paveta, che è un candidato a cui i gay li fanno schifo, quindi sì, ha detto più o meno così, beh, no, ha detto, diciamo, più o meno così, forse ha detto Sodoma, i ricchioni o i froci, non lo so, sì, vabbè, insomma, le etimologie sono tante, vabbè, no? Allora, no, quando mi sono candidata io, in realtà si fece un discorso diverso, cioè si decise di candidare il 20% di persone che non provenivano da una militanza politica, perché non è che ho fatto militanza in una segreteria politica. La cosiddetta società civile. Sì, cioè io sono stata eletta come indipendente, cioè non ho mai avuto tessere di partito, e mai non l'ho neanche presa quando ero lì, come indipendente e come esponente, diciamo, del movimento dei diritti civili, quindi questo è stato il criterio della scelta su di me. Quindi è stata fatta così. Ma dopo il traffico vi voglio svelare due cose. Qual è il Parlamento, Vladimir Luxura adesso attenderà, qual è il Parlamento con la maggior percentuale di omosessuali? Io lo so. Ebbene, vediamo. Mamma allora, mia, che saputelle, che mamma mia. Ufficialmente quello inglese. È ufficialmente quello inglese, è vero, 5% di parlamentari, almeno quelli dichiarati, insomma, omosessuali. Appunto. Apertamente dichiarati, vabbè, insomma. E poi vi voglio far sentire delle cose, ma che succede nel calcio italiano? Ma vi ricordate la vicenda Optipo Bale, Banane, quella di Tavecchio, no? Ce n'è un'altra, perché guardate che questa è abbastanza incredibile, tra poco. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. 24 mattino. Caro Milan, hai bisogno di un consiglio. Ascolta alla gente, non ascoltare soltanto a te. Non esisti soltanto a te. L'Inghilterra l'ha detto chiaro e tondo, non li vogliamo. Da noi, che è il regno dell'ipocrisia, tutti lo pensano, ma non si può assolutamente dire. Gli insegnanti stanno a casa 4 mesi all'anno e fanno 28 ore alla settimana. Io ne faccio in 2 giorni 28 ore di lavoro. Questi qui sono dei mangiapane a tradimento. La scuola italiana è la più scarsa che esiste. Milan, basta calcio, che rottura dei coglioni. Beh, che dire, visto che Milan sta diventando un giornalista impresentabile, per fortuna si sta preparando per un futuro di brillante cantante. Vabbè, perché canto ogni tanto, lo farò anche oggi in rassegna stampa. Sì, ieri ho fatto una puntata sulla scuola, ho raccontato di questo professore, maestro, il maestro italiano di mia figlia, che ha dato la nota a mia figlia dicendo che Angelica non ascolta al maestro. Va bene, allora io devo ascoltare alla gente, va bene così. I maestri, i professori italiani, ma non tutti ovviamente. Allora, siamo con Vladimir Luxuria e Chiara Geloni. Avete già svelato il Parlamento inglese, è questo, e vabbè, Vladimir, bene così, 5%, 32, vabbè, ma chi se ne frega poi se sono... Appunto. Infatti. Cioè. Vabbè, però inchiestona di Repubblica su questo. Ma vi voglio fare sentire, allora, iniziò tutto dalla vicenda delle banane di Tavecchio che poi... È venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare... Ma come fai a dire una roba del genere? Voleva fare un esempio. Tavecchio era quello anche che in una puntata di Report disse questo quando era presidente della Lega Nazionale Dilettanti di calcio, sulle donne. Noi siamo in questo momento protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico della donna nel calcio. È perché finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio, sulla resistenza, sul tempo. Ma voi vi rendete conto? Vi rendete conto? Allora, pare che il successore di Tavecchio alla Lega Nazionale Dilettanti si chiama, fatemelo trovare, pare, perché lui smentisce. Felice Belloli, basta dare 4 soldi a queste 4 lesbiche del calcio femminile. Ma io dico. C'è una continuità strategica nella gestione del settore. Esatto. Ma se è vero, ma porca di quella miseria, ma come si gestisce i vertici del calcio? Allora, do la parola a Chiara Gioloni, dice che c'è una continuità, tutto a posto. Tu, Vladimir Lux, per carità, lui smentisce, dice non è vero, non ho mai detto questa frase, ma... Allora, non è che qualcuno che ha detto eravamo al bar, non il Parlamento, un altro bar dello sport, il famoso bar dello sport, stavo prendendo un caffè e lui se ne è uscito con questa parola. Allora, c'è un verbale, era un consiglio di dipartimento del calcio femminile della Lega Nazionale Dilettanti, di cui lui appunto è il rappresentante, no? Sì. Per cui insomma qualcuno ha scritto, io non capisco perché uno dovrebbe scrivere. No, esatto, ma poi tu fai il verbale, redigi. Allora, dunque, basta soldi a queste quattro lesbiche. Ma io dico, cioè, ma c'è tutto. Questo è stato eccezionale, perché devo dire, in un colpo solo, cosa ha detto? Insomma, intanto ha offeso le donne nello sport, intanto. Due, ha offeso le lesbiche. Sì. E tre, ha detto che queste non beccheranno neanche i soldi. Poi questa teoria secondo la quale, diciamo, le calciatrici sarebbero lesbiche, mentre i calciatori tutti eterosessuali, io qualche perplessità sinceramente ce l'ho. Poi cosa significa? Perché tu sai di qualche calciatore invece di quelli maschioni e in realtà omosessuali? No, non so di qualche calciatore che non mette i tacchi a spillo solo perché c'è un problema nel terriccio, che si infiltrano i tacchi nel terriccio. Cioè, però... giocherebbe anche con un tacco 12, ma sì, qualcuno. Se potesse. Ma a parte, cosa vuol dire che se una donna è lesbica e... Non devi spiegare nulla, cioè è una follia. Cioè, certo, però ecco, se avesse detto, riempiamole di soldi ste lesbicone, ecco, almeno, voglio dire, almeno i soldi glieli dava. Mi insulti, però almeno i soldi me li dai. Cornute e mazziate, povere calciatrici, vedi? Vabbè. Chiara Geloni, così, è un problema insomma della classe dirigente del nostro paese anche. Quello che colpisce di queste esternazioni che avete rimesso in fila è che proprio non ti possono venire in mente se non hai proprio la testa fatta così, cioè non ti può venire in mente di dire ma mangiava le banane persona per definirla. Parliamo tipo mangiava le banane e adesso gioca in Serie A. Ma porca miseria! Sì, è una cosa che mi suscita proprio ma dove li trovano? Non lo so. Da dove escono? No, le devi però pensare. Evidentemente c'è un pezzo di Italia che ancora parla e ragiona così. No, le devi pensare e c'è qualcuno che deve scriverle redigendo un verbale. Peraltro c'è anche questo. Vabbè, ma io voglio chiudere, dai, è venerdì, oggi abbiamo un po' celiato, siamo stati leggeri. Vi voglio raccontare questa. Succede questa, che c'è una bambina di 9 anni, lo racconta il giornale, ieri è finita su tutti i giornali, pensate a questa bambina, che voleva una torta a tema per il suo compleanno in Sicilia, una torta con Little Pony. Io già rido, no? Little Pony, che è un personaggio. E allora gli è arrivata una torta con il bel faccione di Little Pony. Perché tu non so se migliore di me. Cioè il pasticcere gli ha fatto la torta con Little Tony. C'è la foto, c'è il Kodakons che ha fatto causa per danni morali a questa bambina di 9 anni che ha avuto il compleanno sfregiato. Non ho niente e riportarla da me. Riderà. E ridere a sta bambina. Ha riso poco, pare pianti disperati. Eccola qui la torta di Little Pony. Ah no, porca miseria. Ha imparato la durezza del vivere. La durezza del vivere. Cara Vladimir Luxuria, di che parlerete oggi alle 9? Di Little Tony, no? Di Little Pony. Sicuramente, faremo una puntata su Little Tony. La gaffe nella torta. Vabbè, che devo dire? Dire che era il fantino del Little Pony, potevano dire. Non lo so. Esatto, esatto. Pensate allo sguardo della bambina. Eccola qua, caro amore, ecco la torta a te. Ma wow, Little Tony, che guarda. Dice, ma chi è questo? Io avevo chiesto Little Pony. Vabbè, dai, vi devo salutare e vi ringrazio tanto. Vladimir Luxuria e Chiara Geloni, quasi su Radio Capital e quasi sull'Unità, all'Unità, come direttrice. Insomma, Chiara Geloni, va bene. Dai, alla prossima. Voci dal giro. Buongiorno da Dario Ricci. A Castiglion della Pescaia sfreccia Greipel, ma il Giro d'Italia guarda soprattutto alle condizioni di Alberto Contador. Sentiamo. Lo staff medico di Alberto Contador, rimasto coinvolto ieri pomeriggio in una caduta provocata da uno scriteriato tifoso munito di macchina fotografica, deciderà soltanto questa mattina se il corridore spagnolo è nelle condizioni di prendere il via da Grosseto. Per Contador, dopo gli accertamenti strumentali di ieri sera, sono state escluse fratture, ma si parla di sublussazione della spalla sinistra. In verità, a preoccupare il corridore madrileno c'è anche il ginocchio, che si è un po' gonfiato. Nella caduta di ieri, chi ne è uscito più malconcio è Daniele Colli, il velocista milanese, che si è rotto l'omero del braccio sinistro. Oggi settima tappa, da Grosseto a Fiuggi, la tappa più lunga del giro, con i suoi 264 chilometri. Per Contador, anche se dovesse decidere di prendere il via, non sarà in ogni caso una passeggiata. Per Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Grosseto. Voci dal giro, in collaborazione con... Fai fare alla tua attività lo scatto vincente. Vai su ingiroperlavoro.it. Puoi vincere il nuovo Citroen Berlingo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi parleremo dalle 8:15 di questi impresentabili. Nuova categoria della politica, avremo ospite Antonio Padellaro, che è stato direttore del Fatto Quotidiano, abbiamo ospite Filippo Facci di Libero. Ma insomma, questi impresentabili della politica, ma chi compila queste liste? Oggi c'è una nuova vicenda che spunta da Repubblica e riguarda una lista appoggiata da Vendola in Puglia con dentro tra i candidati la sorella di un killer. Non che essere la sorella di un killer, ma la sorella di un killer che, intercettata, diceva: dovevamo sparare in faccia a quel magistrato. Ecco, per dire. Ma allora chi controlla queste liste? Chi le fa? Le fanno i partiti? Le fanno a caso? C'è un controllo da parte degli partiti stessi? Ne parleremo. Avremo ospite anche il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ai nostri microfoni dalle 8:35. Questi gli ospiti, ricordate che è venerdì, Carmelo Lauricella, sorridi di più. Allora andiamo a sentire, a leggere i giornali. Venerdì 15 maggio, il titolo intanto, Il Sole 24 Ore, Draghi, il quantitative easing taglia i tassi per famiglie e imprese. Questo è il titolo di prima pagina del presidente della BCE che parla al Fondo Monetario Internazionale. Le aperture poi sono un po' diverse. Il Corriere della Sera, uno sguardo internazionale, quello che è successo a Kabul, la strage in Afghanistan, Kabul, attacco agli stranieri, questo è il titolo principale in prima pagina. Mentre rimane lo scontro sulla scuola, pronti a precettare i professori ribelli, questo è il titolo di Repubblica, notizia che peraltro c'era ieri già sul Sole 24 Ore, ma è anche per il Messaggero l'apertura: scrutini o precettiamo i prof. E così la Stampa: scuola al garante, ai professori scrutini o sarete precettati. C'è da dire che anche il Manifesto: ti precetto il prof, questo è il titolo di prima pagina. Mentre Per il Fatto Quotidiano, l'uomo d'incalza resta al TAV, rissa alla Camera del Rio Lupi, questo sul Fatto Quotidiano. Libero invece torna su un tema classico, i papponi delle pensioni, e cioè i vitaliziati della politica. Tra poco vedremo qualcosa di interessante. Il Giornale e invece il Quotidiano Nazionale, o Il Giorno se volete, si concentra sul caso pensioni, ma con un risvolto un po' particolare. Renzi, il giallo dell'avvocato. E anche il Quotidiano Nazionale, nell'edizione che ho io Il Giorno, è l'avvocato del giaguaro. È la storia che vedremo tra poco di Giustina Noviello, cioè la legale di Palazzo Chigi, che ha difeso il governo in Corte Costituzionale sulla vicenda delle pensioni, ma mentre difendeva il governo su Twitter questo avvocato diceva delle cose pesantissime su Renzi, tipo paragonandola a Mussolini. Allora c'è questo giallo, ma lo vedremo tra poco. Intanto, io l'ho detto, la 106esima settimana decisiva per l'abolizione delle province che si conclude. E guardate un po', aspettando l'abolizione, le province assumono. Titolo di pagina 7, con un bel richiamo in prima pagina del Messaggero, Antonio Calitri racconta: salgono del 24% gli esborsi per il ricorso ai lavoratori interinali e al 65% quelli per i gadget. I gadget, un bel gadget della provincia. Voi lo vorreste, non so, una spillina da puntarvi al petto, un bel gadget, non lo so, un antistress col simbolo della vostra provincia. I gadget, aumentate del 65% le spese per i gadget, per le province abolende. Ecco, le chiamiamo così d'ora in poi. E la denuncia della Corte dei Conti, tra l'altro, c'è tutto il problema serio, vero, dei dipendenti delle province, visto che le regioni, ha ribadito ieri il ministro Madia, devono prendersi carico di come riqualificare queste circa 20.000 dipendenti delle province. Anche Il Giorno torna, pagina 2, proprio su questo, dedica le prime 2 e 3 pagine sul tema province. Si vota, la politica va stand by, il caos province, dipendenti nel limbo. Claudia Marin, sul Giorno, a pagina 2, c'è il rebus dei 20.000 dipendenti delle province da ricollocare in base alle indicazioni delle regioni, che rischia di diventare un nuovo caso scuola per il governo. Il ministro della funzione pubblica Madia prova a correre ai ripari dicendo: abbiamo fatto un'apertura di credito nei confronti dei territori, ma se non fanno bene il loro lavoro sappiamo che abbiamo le risorse e gli strumenti per ricollocare noi dallo Stato le persone. Cioè, regioni, o ricollocate i 20.000 dipendenti oppure interveniamo noi. Ancora le province. E verrebbe da dire ancora la vicenda dei vitalizi, è un gran classicone che di tanto tanto rispunta. Certo, a mio modo di vedere, il vitalizio non è paragonabile alla pensione vera e propria dei lavoratori, visto una su tutte, che è il vitalizio del parlamentare cumulabile con la pensione ottenuta nel lavoro extra parlamentare. Quindi già questo la rende una cosa diversa. Comunque, per Libero riparte la campagna caro Renzi. Anzi, a pagina 3 Belpietro dice così: forza Renzi, abolisci i vitalizi. E Franco Bechis pubblica una serie di nomi. Partiamo oggi con questi nomi. Chi sono questi nomi? Sono i nomi di coloro che percepiscono il vitalizio. E Libero vuol mettere in risalto l'enorme differenza tra i contributi versati da queste persone e la pensione finora ottenuta, perché sono persone magari che, beati loro e lunga vita, sono già arrivati a 80 anni e quindi già da magari 30 anni prendono un vitalizio. Primo caso, Stefano Rodotà, che ha versato 241.610 euro di contributi nella sua vita da parlamentare e ha già ottenuto fino a questo momento 1.180.416 euro, una differenza di 938.000 euro in più per lui tra i contributi versati e i soldi già ricevuti. Giuliano Amato, 302.000 euro di contributi versati, ha già ottenuto 1.111.000 euro. Gino Paoli ha versato 60.000 euro di contributi e ha già ottenuto finora 557.000 euro. E così Luciano Benetton, stessi contributi versati 60.000 euro, una legislatura evidentemente, ha ottenuto già 552.000 euro. Massimo Cacciari, 120.000, versati 553.000 già ottenuti. Mario Capanna, eccolo qua che torna, 120.000 euro versati, ha già ottenuto 523.000 euro, cioè ha una differenza in più per lui di 402.000 euro. E così, insomma, potete vedere già i primi nomi che Libero dice lo spread dei vitalizi. Ecco quanto hanno versato e quanto hanno ottenuto. Dove c'è una pensione? Voi avete una pensione in cui c'è questo spread tra quanto avete versato in una vita e quanto ottenete poi con la pensione? Bah, dubito, dubito. Invece bisogna capire adesso che succede nel mondo del calcio, quale virus, quale morbo strano si è diffuso nei vertici del calcio, perché c'è un nuovo caso dopo il celebre caso, diventato un caso mondiale, di Tavecchio, che ora è la Federazione Calcio, e che disse, la famosa frase su Optipo Ba, vi ricordate, no? Quando disse un Optipo Ba, cioè giocatore africano inventato, era per fare un esempio, un Optipo Ba magari mangiava banane fino a 2 anni fa e ora gioca in Serie A in Italia. Voleva porre, non lo so, una problematica dei troppi stranieri, ma con un esempio francamente che ha fatto il giro del mondo come una gaffa stellare. Ma Tavecchio era colui, scrive oggi giornali, che su Report aveva anche detto che le donne, l'abbiamo sentito nel calcio, sono sempre state considerate un po' handicappate rispetto agli uomini dal punto di vista fisico, handicappate, ha usato questa parola. Allora, qual è la novità? Che il successore di Tavecchio alla Lega Nazionale Dilettanti di calcio, Felice Belloli, tra l'altro storico collaboratore di Tavecchio, quindi in questo tutti i giornali fanno notare c'è una continuità, avrebbe detto, usiamo il condizionale, ma è tutto in un verbale di una riunione, basta soldi a queste quattro lesbiche del calcio femminile. Eccoli qua i titoli: basta soldi a quattro lesbiche, la gaffa sul calcio femminile del presidente dei Dilettanti, pagina 21 di Repubblica. Il Fatto Quotidiano, pagina 11, dopo Optipo Ba e le banane, ora le quattro lesbiche, basta soldi al calcio femminile. Il Giorno, calciatrici lesbiche, basta soldi. E Leo Turrini, ne leggo l'articolo, dice: in vaste aree del mondo, premessa, il calcio femminile è popolarissimo. Qui invece in Italia viene accusato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti di aver delicatamente commentato richieste di finanziamento per le ragazze che amano il gol con questa frase: basta, non si può sentir sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche. Ora, per precisione, verrà subito chiarito che il gentiluomo in questione, Felice Belloli, ha vigorosamente smentito, dicendo: bisogna dimostrare che quelle cose le abbia dette io, e io le nego. Ma il ruvido intervento è contenuto in un verbale ufficiale, da lì un'inchiesta sportiva. Anche il Corriere, gli insulti omofobi del successore di Tavecchio. Basta soldi alle lesbiche del calcio femminile. Evviva! Ma siamo al momento dell'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante se siete alla guida. Libero. Il prete pedofilo torna libero, per decorrenza dei termini. Rita Cavallaro racconta, pagina 13, libero per decorrenza dei termini massimi di detenzione preventiva Don Riccardo Seppia, ex parroco genovese condannato in appello a 9 anni e 6 mesi di prigione per violenza sessuale su minore, tentata induzione alla prostituzione minorile, cessione di cocaina. Il religioso che era rinchiuso in carcere di Sanremo, grazie alle lungaggini giudiziarie, ha potuto lasciare la cella. Ma resta comunque sotto osservazione, visto che il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e ora sarebbe ospite di una comunità in attesa del nuovo processo ordinato dalla Corte di Cassazione. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il giornalista di Radio 24. Il giornalista, un gran classico. Allora, noi parleremo alle 8.15, 8.20 per la verità, della vicenda degli impresentabili in politica. Ci sono novità oggi. Gianantonio Stella dedica l'editoriale prima pagina proprio a questo tema sul Corriere della Sera. Inizia così: la questione morale in periferia, questo è il titolo. Mancano solo Genia Carogna e Gigino Drink, dicono i nemici di Vincenzo De Luca guardando le liste elettorali messe insieme dal marrottamato sindaco di Salerno. Le snocciolano un elenco sempre più lungo di figure più o meno impresentabili, dal fascista nostalgico che andava in pellegrinaggio sulla tomba del Duce, bollò tre gay con la frase «questi mi fanno schifo», ai riciclati dalla lunga carriera vissuta all'ombra di Cosentino, dalle mogli di potentissimi padroni di tessere forziste in perenne transumanza, fino a personaggi ai confini tra mala politica e mala vita. Presenze che via via che si avvicinano alle elezioni alimentano a sinistra un imbarazzo crescente, al punto da spingere una giornalista nemica della camorra come Rosaria Capacchione, ora senatrice, a dire: nel PD non ci sarà mai un caso Cosentino, questo 2 anni fa, e riconoscere: ora su certi temi abbiamo abbassato un po' la guardia. Ma si chiede Stella, ma chi controlla? Questo è il tema, chi controlla? E infatti la commissione antimafia, questa è la notizia più interessante del giorno, la commissione antimafia che è presieduta da Rosi Bindi, di certo non un'amica politica di Renzi, ha fatto questa iniziativa, esaminerà le persone nelle liste. Pagina 9 del Corriere della Sera: gli impresentabili sono al setaccio dell'antimafia. Sul tavolo di Rosi Bindi c'è un fascicolo alto così, con i nomi dei candidati che negli ultimi giorni ha riempito le pagine politiche dei giornali. I curricula di inquisiti, fascisti, presunti amici di Gomorra, trasformisti e via sobbalzando verranno valutati dalla commissione parlamentare. Un organismo che tra i suoi compiti costitutivi annovera quello di indagare sul rapporto mafia-politica, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti. L'intento non è certo quello di condizionare il voto, ma prima del voto delle regionali si fornirà agli elettori un vademecum che consenta di tracciare una linea netta tra i candidati puliti e gli altri, cui nomi non andrebbero scritti sulla scheda. Così dice Rosi Bindi: l'etica della politica non è misurabile solo con gli atti giudiziari. E dunque ci saranno sorprese dalla commissione antimafia. Per ora le sorprese vengono da un'altra vicenda, per esempio la scovata Repubblica, pagina 8, la sorella del killer finisce nella lista di Vendola. Parliamo dunque delle regionali in Puglia. C'è la sorella di un killer della malavita foggiana tra i candidati al Consiglio regionale in Puglia. È la storia di Carmela Cenicola, 42 anni, sorella di Vincenzo Cenicola, 30 anni, condannato a 8 anni e mezzo per l'omicidio di Fabrizio Pignatelli. Questa Carmela Cenicola è inserita nella lista Noi a Sinistra per la Puglia, promossa dal presidente della regione uscente Ninchi Vendola e dal senatore in quota SEL Dario Stefano. Questa, uno si dice, vabbè, ma essere la sorella di un killer di per sé non è che ti dà la patente di impresentabile. È solo che questa Carmela Cenicola, andando a trovare il fratello in carcere, è stata intercettata con intercettazioni ambientali a dire così: in primo caso, riguardo al magistrato, gli avessimo rotto il a quello lì. E in secondo luogo ha detto: se io avessi una pistola e non avessi nulla da perdere per le cattiverie che sta facendo, gli sparerei in fronte davanti a tutti quanti. Questa è cattiveria. Per queste frasi il magistrato è stato messo sotto processione, sotto protezione, mentre Vincenzo e Carmela Cenicola, anzi Vincenzo e Michele Cenicolo, un altro fratello, sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Lecce, ma ora che il tempo dei processi è finito la sorella accetta di candidarsi e viene presentata così nella lista elettorale. Una compagna che proviene dal mondo del lavoro, si è fatta da sé, è sempre andata avanti con le proprie forze. Vabbè, Repubblica racconta questa storia: la sorella del killer finisce nella lista di Vendola. La questione degli impresentabili diventa una questione sempre più dibattuta, poi a capire come si definisce un impresentabile. Lo discuteremo alle 8:15. Avremo Antonio Padellaro del Fatto, avremo Filippo Facci, avremo il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Il Fatto Quotidiano a pagina 3 torna anche sulla vicenda già raccontata ieri dal Secolo XIX del Movimento 5 Stelle in Liguria, dove uno dei candidati, tale Comandini della regione Liguria, è amico fraterno di Carmine Mafodda, che è incensurato, è un attivista del Movimento 5 Stelle, ma viene considerato erede di una famiglia legata a cosche calabresi, all'andrangheta calabrese. E allora ieri il capogruppo di Imperia del Movimento 5 Stelle, Antonio Russo, ha detto: votate il simbolo Movimento 5 Stelle, ma non mettete le preferenze perché ci sono dei nomi strani. E anche qui gran dibattito che si è aperto nel Movimento 5 Stelle. Vabbè, ne discuteremo dalle 8:15. Intanto la questione delle pensioni torna prepotentemente. Allora, come si pagheranno, a chi si pagheranno? Ormai i pensionati sono tutti lì a cercare di capire che succederà. C'è l'ipotesi rinvio, questo si dice oggi il Sole 24 Ore, cioè Padoan spinge per approvare il decreto lunedì, Palazzo Chigi preferisce dopo le regionali. Forse Palazzo Chigi, cioè il governo, cioè Renzi, preferisce dopo le regionali, forse perché la materia è scottante e si rischia di perdere qualche voto, non si sa. C'è un giallo nel giallo, però, nella questione delle pensioni. Noi in Italia siamo sempre abituati a fare queste cose con, scovando dei gialli e dei misteri, e cioè riguarda una persona, cioè l'avvocato che ha difeso Palazzo Chigi, il governo, presso la Corte Costituzionale, davanti alla Corte Costituzionale, nel caso della sentenza in cui è stata bocciata la legge Fornero. E succede che l'avvocato che difendeva il governo, l'avvocato di Stato Giustina Noviello, parallelamente sul profilo Twitter twittava, cioè scriveva delle cose contro Renzi durissime. Lo ha paragonato a Mussolini, ha scritto: eccolo qua, va in Egitto Renzi sulle orme di Napoleone con molta più chiacchiera. Oppure in un altro tweet: il ragazzo è molto nervoso, circondato da yes boys e yes girls. E poi ancora, eccolo qua, si somigliano sempre di più con la foto Mussolini e Renzi. Cioè il caso dell'avvocato di Stato che difendeva il governo, ma intanto twittava cose terribili sul capo del governo. E allora tutti i giornali pongono la questione: se l'avvocato dello Stato twitta contro il governo, Repubblica. Oppure ecco qua, il giornale addirittura la mette come notizia principale di prima pagina: l'avvocato dello Stato del pasticcio pensioni è un anti-Renzi. Doc, seguono tutti i Twitter in questione. Il Giorno: l'avvocato dello Stato tifa la Consulta, tweet anti Renzi, bufera sul legale, cioè difendeva il governo, ma in realtà poi faceva dei tweet dicendo: meno male che c'è la Corte Costituzionale. Un avvocato un po' particolare che non si sa chi difendeva. Comunque, le pensioni, il Sole 24 Ore dice che forse lunedì arriverà il decreto, ma forse no. La materia è scottante, Mauro Meazza, forse è meglio trattarla un po' dopo le regionali, come quando abbiamo venduto cacà. Due giorni dopo il voto, o no? Ma innanzitutto buongiorno. Caro Alessandro, ma non dire queste cose da impresentabile, perché mi diventi un po' impresentabile. Certo, sono materie su cui bisogna riflettere attentamente. Riflettiamo. Magari ci sarà un primo intervento lunedì e poi un ulteriore intervento. So che stavi leggendo appunto i colleghi Davide Colombo e Marco Rogani. Vediamo, magari un intervento per i redditi più bassi, chissà. Il weekend porta consiglio, vorrei citare un poeta contemporaneo. Vorrei invece citarti il fatto che ci sono due o tre notizie da dita incrociate, cioè di quelle, ma chissà se poi. Allora, apprendo dalle pagine di Imprese Territori che i prestiti alle imprese sono cresciuti. Bene. Più 41 miliardi, siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi, però qualcosa si è mosso. Sempre dalle pagine di Imprese e Territori, gli stranieri tornano a investire sull'Italia, c'è un afflusso di capitali esteri in aumento, e insomma è un'altra notizia che è da dita incrociate. E poi sembrerà minore, ma non è così tanto minore. ci sarà una, finalmente una liberalizzazione per l'export di salumi italiani negli Stati Uniti. Si apre un bel mercato. Caro mio, non fare l'ironico, no, perché ironico? È un mercato molto importante. Ma che ironico? Molto importante. Non era niente ironico. No, non so che tu fai un po' il salame in questi casi. No, è molto importante. Poi stai attento a questi due urini che c'hai in giro, sì, lì tra le banche di Monaco, della Svizzera, non si sa bene. Lussemburgo. Allora, siccome mi pare proprio che tu ce li abbia in contanti, questi due urini, non credo, sì, che tu abbia fatto, sì, gli, sì, investimenti. Due monetine, ecco, divise. Ecco, allora, vabbè, potevi anche avere in pezzi da centesimi, però. In ogni caso, leggi oggi le pagine norme e tributi perché, torniamo, lo facciamo spesso, sulla voluntary disclosure, cioè la regolarizzazione e rientro dei capitali, e c'è proprio una serie di problemi sull'utilizzo di somme in contanti, come si fa a regolarizzare somme in contanti, a dimostrare la consistenza di somme in contanti. Ma te lo spieghiamo, perché siamo comprensivi con te, che ti sei dimenticato questi due urini, ti spieghiamo come si può fare proprio nelle pagine di norme e tributi. Va bene, che altro ti volevo dire? Scusa, c'è un'altra notizia di te incrociata, me la sono ricordato adesso perché ero arrivato alle pagine di moda. Sai, oggi è venerdì, sì, e abbiamo delle pagine di moda. Si prevede che il sistema del tessile moda quest'anno potrebbe crescere il 5%. Basta, io la dico. Sono tutte cose positive. Speriamo che anche, come dire, il weekend, anche dal punto di vista calcistico, ci porti delle cose positive. Ma più a me che a te. Ma cosa vuoi? Più a me che a te. Vabbè, sono le piccole soddisfazioni, calcio, che ci sono rimaste. Sì, sì, sì, certo. Sai che ci sono delle squadre italiane che giocano nelle competizioni internazionali? Sì. Sì, non sono le nostre, però. Mm. Va bene. Non è nessuna delle due nostre. Non va bene. Non conosco. Tutto questo ti segnalo su norme e tributi l'importante decisione della consulta sulla fecondazione assistita. È caduto un altro pezzo delle norme sulla fecondazione assistita, è stata ammessa l'eterologa anche per le coppie che sono portatrici di malattie genetiche. È spiegato tutto su norme e tributi, caro Milan, buona domenica a te e a tutti quanti gli ascoltatori, ma soprattutto traffico! Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione. Eccolo qua, il nostro solito abbraccio consueto alla nostra amica Rossella Brescia. Allora, la scuola è sempre in subbuglio perché c'è il tema degli scrutini e del blocco minacciato degli scrutini da alcuni sindacati, altri si dissociano, altri sono un po' incerti. Ieri avevamo il leader della CGIL Scuola, il blocco degli scrutini, i dubbi dei sindacati, ma soprattutto il blocco preventivo del garante agli scioperi, il titolo di prima pagina di molti giornali, e cioè non bloccate gli scrutini o vi precettiamo. Ti precetto il prof, il titolo del manifesto in prima pagina. Il manifesto ha anche uno sguardo politico su questa riforma della scuola che oggi approda in Parlamento per la discussione. Ebbene, c'è la minoranza del PD, come scrive anche Repubblica, che si ricompatta sempre a dire o cambia la riforma oppure non la voteremo. Insomma, riparte questo un po' teatrino della politica. E sul manifesto Stefano Fassina, dopo che è uscito Civati, eccolo qua il penultimatum di Fassina, intervistato da Andrea Fabozzi: se non ci saranno radicali correzioni sulla scuola, il mio percorso nel PD si concluderà, perché ho già fatto tutte le tappe dell'opposizione interna e su questioni di massima rilevanza, dalla svolta liberista sul lavoro al populismo delle riforme elettorali e costituzionali. Ora c'è il tentativo di uniformare la scuola a quel modello di democrazia autoritaria. Dunque Fassina annuncia dal manifesto: o cambia radicalmente la riforma in Parlamento o lascio il PD. Problemi anche nel centrodestra, lo sapete, Berlusconi, coniando effettivamente il Renzi e il celebre Fassina chi, ha lanciato il fitto chi. Ieri era in Puglia Berlusconi per lanciare la candidata Adriana Poli Bortone. E all'onorevole Fitto vuole dire qualcosa, presidente? Chiede un giornalista. E lui: chi è? Eccolo qua, il fitto chi, Berlusconi, fitto chi, nel ring della Puglia, scontro con il ribelle. Pagina 10 del Corriere della Sera, Virginia Piccolillo racconta la cronaca di un Berlusconi che prende le distanze da affitto. Per la verità, Tommaso Ciriaco su Repubblica, sempre al seguito di Berlusconi in Puglia, svela un particolare, certo è un'indiscrezione, chissà se confermato, cioè Berlusconi vorrebbe tornare al tavolo con Renzi. Avrebbe detto ai suoi: io non posso prendere schiaffi da Salvini e farmi trattare da pensionato, così mi ride dietro mezza Italia. E allora dopo le regionali torno al tavolo con Renzi che ha bisogno dei nostri numeri. Oppure mando tutti a... E potete immaginare come ha concluso la frase Berlusconi. Questo secondo Repubblica. Dunque Repubblica dice: dopo le regionali Berlusconi tornerà a parlare con Renzi. Sguardo ad altre notizie. Volete sapere qual è il Parlamento con il maggior numero di gay, almeno in Europa, almeno certificati, almeno dichiarati apertamente? È la Gran Bretagna, e su questo tema Repubblica dedica due pagine dal corrispondente Enrico Franceschini. Il Parlamento arcobaleno, record di deputati gay, è l'ultima rivoluzione della Gran Bretagna. Sono il 5% del totale, 32 deputati o deputate gay, quindi gay o lesbiche, che fanno parte del Parlamento in maniera dichiarata. Ci sono anche i confronti, l'Islanda, gli Stati Uniti, la Colombia, l'Argentina, insomma, con dei numeri. A proposito della sentenza che citava prima Mauro Meazza sulla fecondazione assistita, la Corte Costituzionale ha bocciato un'altra parte della legge 40, smontata ormai pezzo per pezzo, e sono state cambiate in 36 verdetti in questi anni la legge 40. È stata data il via libera alle coppie fertili, se hanno malattie genetiche, che quindi c'è il rischio di trasmettere ai bambini, di poter usufruire della fecondazione assistita. La fecondazione, quindi la legge 40, trovate su tutti i giornali questo tema. Tra l'altro c'è un'interessante inchiesta del giornale, del Corriere, ed è questa: mamme tardive in Italia, siamo il paese col maggior numero, la maggior percentuale di donne che partoriscono sopra i 40 anni. Questo sul Corriere della Sera. Vabbè, non citerò il dramma della piccola Evelina, ma lo faccio, sì, la piccola Evelina, 9 anni, in Sicilia. Voleva un compleanno con una richiesta particolare, una torta con sopra Little Pony, un personaggio dei cartoni, Little Pony. Le è arrivata una bellissima torta, auguri Evelina, ma con la foto di Little Tony, il cantante. Dramma al compleanno di Evelina, e il Codacons ha fatto causa per danno morale nei confronti della piccola bambina. Voleva la torta di Little Pony, è arrivato Little Tony, pagina 16 del giornale. Che faccio, canto? Ragazzi, qua Libero è partito, siamo anche in diretta su Periscope, e Libero oggi ci ripropone un'altra canzone, testo di Carlo Cambi, questo piccolo grande errore sulle note di... E vabbè, e si sa, le pensioni, Quella sua sentenza finale, tanto stretta al punto che va per aria tutto. E per una pensioncina io, Renzi e il ministro già diamo di matto. Ma perché? Ma perché? Gli assegni rivalutati a tutti quei pensionati, e la paura e la voglia di non dargli nulla. E vabbè, e vabbè. Un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro. Ti amo davvero. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Eccoci qui, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:19 minuti. Allora, signore e signori, abbiamo una nuova categoria di politici, gli impresentabili. Questo evidentemente da qualche giorno leggete questi titoli, impresentabili nelle liste. Sono persone che sono finite nelle liste di alcuni candidati alle regionali, e persone dalle quali gli stessi candidati ora prendono le distanze in un cortocircuito tra mediatico e politico abbastanza clamoroso. È il paradosso della politica. Noi oggi vogliamo porci una domanda: ma come si stabilisce che una persona è incandidabile, quindi impresentabile in politica? Non lo so, perché guardate che oggi dai giornali si legge che la commissione parlamentare antimafia, presieduta da Rosy Bindi, ha aperto un fascicolo in cui vaglierà tutte le candidature e darà il proprio parere. Il caso è scoppiato anche per alcune inchieste del Fatto Quotidiano, perché Saviano ha detto Gomorra è nelle liste di Vincenzo De Luca e dunque nelle liste del PD in Campania. Ci sono stati alcuni casi presentati dal Fatto Quotidiano, come una persona il cui padre è stato arrestato per camorra ma poi è stato prosciolto, e questo signore dice: io non ho mai avuto problemi con la giustizia, quindi non sono certo io impresentabile. Comunque Vincenzo De Luca, nelle tante domande ovunque vado ormai gli chiedono semplicemente e soprattutto di questo, degli impresentabili, Vincenzo De Luca la pone così: per quanto riguarda una lista collegata a me, nel giro di una notte sono stati presentati alcuni nomi che nessuno ha potuto verificare. Quei nomi non li avrei candidati e faccio appello perché non siano votati. Insomma, è il paradosso, non votateli, però non dice i nomi e quindi uno non sa chi dovrebbe non votare. Oggi Repubblica dice che nelle liste della Puglia, sponsorizzate dal presidente Nichi Vendola, è finita anche una sorella del killer della malavita foggiana. Una sorella che, intercettata in intercettazione ambientale in carcere, dice: a quel magistrato gli avrei sparato in faccia. È candidata anche lei in Puglia. È impresentabile? È incandidabile? Insomma, discutiamo di questo. E voglio salutare Antonio Padellaro, già direttore del Fatto Quotidiano, ora presiede l'editoriale, firma del Fatto Quotidiano. Ben ritrovato, Padellaro. Eccoci qui. Buongiorno, buongiorno a voi. Così come saluto Filippo Facci, firma di Libero. Buongiorno Filippo e ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao Padellaro. Eccoci ciao, qua. Ciao Filippo. Allora, Filippo Facci, che un paio di giorni fa ha scritto, ogni giorno scrive su Libero la sua rubrica in prima pagina. E Filippo, tu scrivi: ma chi sono questi impresentabili? Chi è condannato? Chi in primo grado? Chi in secondo grado? Chi in Cassazione? Chi è indagato? Chi è intercettato? Chi viene citato da Saviano? Chi finisce in inchiesta? Insomma, chi sono questi impresentabili? Come lo stabiliamo? Ma io dico questo, diciamo, faccio giornalista da sufficiente tempo per aver visto, appunto, secondo me, un'insopportabile serie di tentativi, secondo me, ipocriti ogni volta di stabilire un'oggettività da parte di qualcuno nello stabilire chi è impresentabile. Gli impresentabili, io ho capito, che sono quelli che qualcuno a un certo punto dice che sono impresentabili. Perché sì, perché sono loro nemici politici, perché secondo i loro criteri personali, politici e morali sono impresentabili, ma il tentativo ogni volta di dare una ragione specifica e magari codificabile come la regola, per cui appunto stabilire che siano impresentabili dei personaggi fa sempre ridere. E appunto io ho fatto un elenco, voglio dire un censimento, sì, per cui si è cercato appunto velocemente. Allora, i condannati in giudicato, no, quelli anche solo in appello, no, solo in primo grado, no, basta che sia rinviato a giudizio, no, basta che sia indagato, no, ma anche se è stato assolto ma per prescrizione, però no. I Volta Gabbana. Come hai detto prima, i coinvolti, come si citano le sentenze, sì, i parenti, gli amici, quelli citati in qualche intercettazione telefonica. Insomma, poi non ci sono capisce. Tutta una serie di criteri e improbabili. Sì, però qui il cortocircuito, Filippo, il cortocircuito è che adesso ci sono dei candidati, primo De Luca, l'abbiamo sentito, che dice: non votateli, peraltro senza dire chi sono. Ma infatti c'è anche questo, perché poi non dicono chi sono, poi invece qualcuno lo dice, un giornale dice che sono alcuni, un altro giornale dice che sono altri. Io posso dimostrare, citando le ultime elezioni politiche, che tutti questi criteri sono stati comunque violati. che sono stati eletti delle persone indagate, in qualche caso anche condannate, cioè facciano pure tutto quello che vogliono, sono, sì, affari loro, questo io dico. Sì, però il criterio, però, ecco, il criterio non c'è, non, cioè stabilire, no, un criterio oggettivo, che, non guarda, non un tempo avremmo scritto che a fare il bello e il cattivo tempo magari era la magistratura, e lamentandocene, sì, ma non è neanche più così, è una geometria variabile politica che dipende solo da un combinato di indagini, intercettazioni, buona o cattiva stampa, per cui alla fine salta su qualcuno e dice gli impresentabili sono impresentabili, sì, secondo me non votate. E anche inchieste giornalistiche, perché va dato atto al Fatto Quotidiano di avere prepotentemente lanciato questo tema nel dibattito politico, nella discussione dell'opinione pubblica. No, Padellaro, siete stati voi a dire, è vero, Saviano ha detto questa frase molto pesante, c'è Gomorra nelle liste del PD, ma voi avete fatto nomi e cognomi, avete presentato alcuni, quello che è nostalgico del Duce, si candida con De Luca, quell'altro appunto Enrico Maria Natale che ha avuto il padre con qualche problema, poi prosciolto, e lui dice io nessuno ha fatto il mio nome, per cui perché sarei impresentabile, Padellaro? Allora, io penso che i giornali servano a questo, cioè a dire guardate che questi signori hanno questi precedenti, hanno queste caratteristiche politiche che possono essere certamente opinabili, possono nel nostro caso determinare un giudizio negativo su queste persone, il fascistone per esempio, ma insomma è il nostro lavoro, no? Cioè, facciamo facciamo come è giusto che sia in una democrazia rappresentativa, diciamo attenzione che queste persone hanno questi precedenti, poi naturalmente sono votabili o non sono votabili? Certo che sono votabili, perché vengono presentati, non ci sono dei criteri per cui non possono essere presentati, quindi spetta agli elettori, una volta che si sono informati, no? No, a cosa serve l'informazione? Sì. Sono informati sulle caratteristiche di questi personaggi, votarli o non votarli. Ma l'aspetto nuovo, e credo che sia quello centrale, è la dichiarazione strepitosa di De Luca. Non votate. La dichiarazione di De Luca è una delle cose più divertenti che io abbia mai ascoltato, perché andrebbe analizzata, dovrebbe dedicare proprio una trasmissione specifica, sì, tanto a De Luca, che è un personaggio unico. Insomma, lui dice nella notte sono finiti nella notte, ma sì, no, ma è una specie di horror nella notte, sono finiti. Però le liste si fanno un po' così a volte, all'ultimo tempo, ma lo so perfettamente, succede. Io ho molta simpatia su questo aspetto di De Luca, mi crea simpatia, no, e poi dice non votateli, sì. Dobbiamo prendere per buono che si riferisce a quelli per cui voi avete fatto le inchieste. Bravo, non si sa chi siano, è un mistero. Io penso che tutte le liste di De Luca a questo punto si sentono un po' sotto. Ma la cosa più sotto esame, la cosa più bella è che l'ha detto anche Renzi. Sì, sì. È vero. Ha detto attenzione. Che c'è una lista che non va bene. Sì, allora, lo vogliamo sentire Renzi, l'ha detto, sì, è andato alla Repubblica TV, ha detto questo. Alcuni candidati mi imbarazzano e come, però voglio dire a Ermanno e a tutti coloro che con lui sono imbarazzati e con me, che le liste del PD sono liste pulite. Che il PD in Campania ha fatto pulita. Vabbè, rispondeva un ascoltatore, era questo. No? Alcuni mi imbarazzano. Vuol dire che legge i giornali almeno, legge il Fatto Quotidiano, evidentemente. Perché... Sì, non lo imbarazzano. Allora, vediamo, è una comica. Diciamo, su questo credo di essere in parte d'accordo con Fazio, è una comica. Detto questo, ci sono effettivamente dei personaggi un po' strani, sì, che in un partito, e chiudo, che si è presentato con Renzi come partito della rottamazione, no? Perché noi non dobbiamo dimenticare che il primo anno dell'era renziana, no? Quello della rottamazione. Con i numeri latini, e quello della rottamazione. Che cos'è la rottamazione? Via fuori tutti i vecchi, i tirannosauri, anche quelli che non hanno una fedina penale politica. pessima, perché noi siamo quelli puliti, siamo quelli trasparenti. Sì, però qua di fedine e pedali in realtà poi non è che c'è. Però la questione è questa, ecco, oggi la novità è che su il Corriere della Sera c'è scritto che l'antimafia di Rosi Bindi, della commissione, farà un censimento. Non so, vorrei capire, Filippo Facci e Padellaro, Filippo, cosa potrà uscire da queste, consigli? E poi, daranno una sorta di responso, per carità, senza... che responso potranno dare? Mamma mia, no, ma mi sembra una cosa terribile. Cioè, io non chiarisco, non ce l'ho con i giornali che in effetti fanno il loro lavoro, perché hanno delle opinioni e fanno delle campagne di opinioni. Padellaro ha lavorato all'Espresso, che per primo non lo so, però insomma già faceva degli elenchi, mi ricordo, diceva non votate questi, così come un giornale può dire votate quest'altro. Ma certo. Va benissimo, io ce l'ho con il, come dire, la maniera da sepolcri imbiancati con cui alcuni personaggi o partiti cercano di prendere atto delle campagne giornalistiche per stabilire degli apparenti criteri oggettivi. Mm-hmm. I partiti in effetti sono pieni di statuti, probiviri, codici etici, garanti che dicano che oggettivamente questo personaggio non si può candidare. Adesso arriva addirittura la commissione antimafia che non combinerà niente, perché, ripeto, cioè io posso fare degli esempi, senza, perché io sinceramente non ce la faccio più e non la sto neanche seguendo la questione della campagna, però già in passato, anche nelle scorse elezioni, ci sono dei personaggi che sono stati candidati, sì, anche se erano rinviati a giudizio, altri non sono stati candidati e non erano neanche rinviati a giudizio, però erano coinvolti in altre cose. Quello che voglio dire è che il paradosso è che De Luca è ridicolo che abbia detto quello che ha detto, sì, però ha ragione, secondo me, nel senso che quello che uno può fare alla fine è non votare. È votare o non votare il personaggio X su... Sì, però si dovrebbe presentare e dire allora gli impresentabili sono, che sono finiti per sbaglio nella mia lista di notte, sono quelli che non vengono presentati. No, nome e cognome. Nel momento in cui sono stati presentati, come dire, sta zitto. Esatto. Allora, stai zitto, o se dici ci sono degli impresentabili, non votateli. Io sono qui carta e penna, se sono un elettore di De Luca, e dico bene, mi dica. Mi invento una nuova categoria, se l'impresentabile è colui che parla di impresentabile. No, certo, però il cortocircuito che si è creato è questo, che adesso gli stessi candidati, Primo De Luca, crede a questa cosa che ci siano degli impresentabili e dice non votateli, però non si sa chi sono. Però vorrei far sentire far sentire sempre De Luca su Saviano, perché c'è il tema anche Saviano, Padellaro, senti De Luca su Saviano. Vorrei chiedere con molto garbo a Saviano di non confondere la battaglia contro la camorra con l'offesa alla dignità di altre persone che magari la pensano diversamente da lui e che non sono disponibili, per la vita che hanno alle spalle, ad accettare da lui nessuna lezione sul versante della lotta alla camorra. Che sia chiaro, nessuna lezione da Saviano, parlava Maurizio Belpietro su Canale 5. Padellaro. Dunque, allora, De Luca, ripeto, fantastico. L'altra cosa è questa. Abbiamo detto che esistono dei criteri comunque che possono impedire le candidature, no? Per esempio la legge Severino, l'abbiamo visto con Berlusconi, no? Sono delle leggi anche quello. Però se poi vieni candidato, perché hai i requisiti per essere candidato, il problema passa agli elettori. Allora Saviano ha detto, tra le tante cose, una cosa importante, ha detto che effettivamente questi nomi vengono messi ovviamente per raccattare voti, non è che vengono uno messi. Presenta uno che prende voti, certo, altrimenti. Allora, e lui dice: ma quali sono, che voti sono questi? Sono voti, è chiaro che i voti non hanno odore, non hanno sapore, sono voti, però lui, sto interpretando le cose dette da Saviano, dice: in alcune zone, soprattutto della Campania, il voto di scambio, chiamiamolo così per capirci, è una pratica così diffusa e intensiva, per cui questi che sono legati ad ambienti poco raccomandabili diventano invece delle calamite di voti, perché sì, no, come i voti, come era in Sicilia, quando la mafia indirizzava i voti su certi candidati, per cui questo è un modo per diciamo prendere più voti, perché sai che comunque quei signori, quei padrini, chiamiamoli così anche se non è il termine spostano giusto, voti, prendono, attirano voti. Ora nessuno può impedire, questo è il punto centrale, a chiunque abbia il diritto di voto, di votare anche per Al Capone, se poniamo si presentasse nella lista di... Sì, ci bisognerebbe trovare un modo da parte dei partiti di impedire che Al Capone finisca nelle liste. Sì, i partiti dovrebbero semplicemente, se vogliono essere coerenti, e qui do ragione a Facci che i sepolcri imbiancati ormai si sprecano, dovrebbero essere, e lì effettivamente il punto insopportabile, dovrebbero essere talmente chiari e trasparenti nel dire: guardate, noi abbiamo fatto delle liste in cui abbiamo esaminato la storia di queste persone, sono persone per bene. Sì. C'è, purtroppo è capitato Ciccio Mazzetta, che non è perché non capita, votate, non votate Ciccio Mazzetta. Sì, ma qui manca il nome alla fine. Manca la seconda parte. Manca la seconda parte. Però io per il momento vi ringrazio e mi devo fermare, ma tra poco, tra 4 minuti, avremo i nostri microfoni Franco Roberti, chi è il procuratore nazionale antimafia. Certo, partiremo da qui, visto che indaga anche la commissione antimafia, per capire insomma quali criteri oggettivi, come ci dice Filippo Facci, si possono stabilire per capire se uno sia presentabile o non presentabile, candidabile o non candidabile. Ringrazio intanto Filippo Facci, Libero, e Antonio Padellaro, Il Fatto Quotidiano, e tra poco con il procuratore nazionale antimafia. State con noi. Allora, abbiamo affrontato stiamo affrontando questa questione degli impresentabili in politica, nuova categoria che è fuoriuscita dai giornali, e da qui vorrei iniziare a fare qualche domanda al procuratore nazionale antimafia, che ringrazio di essere qui ai nostri microfoni. Si tratta di Franco Roberti. Procuratore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, è accettabile dal suo punto di vista quello che sta succedendo adesso, il dibattito in cui ci sono anche dei candidati in campagna? Si pensa ovviamente per primo a De Luca, che dice: effettivamente sono entrati dei candidati che ci imbarazzano, non votateli. Guardi, io non so se sia accettabile, perché non conosco una categoria giuridica degli impresentabili, quindi non saprei rispondere su questo. So che c'è un codice di autoregolamentazione approvato da tutti i partiti, i quali si impegnano con questo codice a non candidare, a non sostenere persone che siano state rinviate a giudizio o condannate o raggiunte la misura cautelare non annullata né revocata per una serie di reati gravi. E mi attengo a questa categoria, che è una categoria giuridica prevista dal codice di autoregolamentazione. Certo, ma nel momento in cui alcuni candidati prendono le distanze, lei cosa si auspicherebbe? A questo punto vorrebbe dire: toglieteli dalle liste. E questo dovrebbe essere una scelta fatta dai partiti. Senta, oggi leggo sul Corriere della Sera che la Commissione parlamentare antimafia vuole proprio approfondire questo punto. Ma appunto, si può stabilire, lei ce l'ha già detto, un criterio oggettivo in cui si può dire questo sì, questo no? Certo, il criterio oggettivo è contenuto nel codice di autoregolamentazione, che indica specificamente tutti i reati, sono i reati più gravi, i reati di mafia, i reati contro la pubblica amministrazione, quindi la corruzione, la concussione, i reati in tema di rifiuti, quello almeno più grave previsto dal testo unico ambientale. Ecco, per tutti questi reati i partiti, per coloro che sono stati rinviati almeno a giudizio, condannati in primo grado oppure siano stati raggiunti la misura cautelare, per questi reati i partiti si impegnano a non candidarli e a non sostenerli nemmeno con liste collegate, e questo impegno credo che dovrebbe essere mantenuto. Il problema ed però... è possibile accertare se persone che rispondano, diciamo, a questa categoria, diciamo, prevista dal codice, siano state candidate in qualche lista. Però non crede, dottor Roberti, che ci sia un cortocircuito tra i tempi lunghi, a volte eterni, della giustizia e la decisione che devono prendere i partiti, per cui non ci sono persone condannate neanche in primo grado, eppure Saviano dice c'è Gomorra nelle liste del PD. Allora uno se una persona non è stata almeno rinviata a giudizio, cioè è soltanto indagata, non è teoricamente candidabile, poi sta diciamo alla valutazione, che ha un fondamento politico e anche etico dei partiti, decidere se candidarlo o meno, ma il discrimine è il rinvio a giudizio. giudizio. Io rinvio a giudizio. Le chiedo, questo si può accertare. Certo, parliamo di corruzione, procuratore, perché lei ha più volte sottolineato che la corruzione in Italia è da sempre sottovalutata, proprio come fattore culturale, insomma, non indigna abbastanza. Non è mai stata adeguatamente considerata come uno dei reati più gravi e anche più gravi per l'economia, perché la corruzione a livello sistemico, quale purtroppo c'è nel nostro paese, è un reato che altera i rapporti economici, che determina costituisce un freno all'economia, mm-hmm. perché crea dei dissesti a livello di equilibri di mercato, perché favorisce le imprese che preferiscono, diciamo, appunto ricorrere alla corruzione piuttosto che concorrere lealmente e in modo legale nel mercato delle opere pubbliche, per esempio. Sì. Quindi voglio dire, la corruzione è un fatto gravissimo, ma ora per fortuna. Sì. Incominciando a valutare. Ecco perché approda appunto il decreto di legge sull'anticorruzione in aula. Lei è ottimista di quello, del provvedimento che potrebbe fuoriuscire? Guarda, io sono sempre ottimista per principio, poi magari qualche volta rimango deluso, però credo che questo sia il momento, se vogliamo veramente rilanciare il nostro paese, rilanciare la nostra economia, favorire lo sviluppo, bisogna veramente inserire fra le riforme essenziali e più urgenti quella del contrasto alla corruzione. Un altro tema che è riferito anche non solo alla questione delle liste, è la questione dei tempi di prescrizione. Lei da magistrato vorrebbe dei tempi di prescrizione più lunghi o vanno bene così? No, assolutamente no, non vanno bene, ma ci sono anche in questo caso disegni di legge all'esame del Parlamento. Infatti. Che prevedono una riforma della prescrizione, una riforma in senso, diciamo, non tanto dell'allungamento dei termini quanto della possibilità di sospensione dei termini di prescrizione dopo, per esempio, la condanna di primo grado. Questo già sarebbe un grande vantaggio. Cioè, condanna di primo grado, a quel punto sospendiamo i termini di prescrizione. Personalmente io preferirei un'altra soluzione, cioè? Che pure all'esame del Parlamento, quella di bloccare la prescrizione con il rinvio a giudizio. Ah, da quel momento? Dal momento del rinvio a giudizio non decorre più la prescrizione. Non c'è il rischio però, procuratore, che si rimanga indagati a vita? No, perché bisognerebbe poi prevedere attualmente tutta una, come dire, una, e qui è il compito e la responsabilità dei magistrati, prevedere anche il rispetto dei tempi, anche il rispetto, diciamo, di un ordine nella trattazione dei procedimenti nella fase del giudizio. Le chiedo questo, procuratore, la recente scomunica ai mafiosi del Papa, secondo lei ha smosso qualcosa o è un qualcosa che ha avuto un'ampia eco mediatica, ma poi non ha cambiato le cose? No, è un fatto molto importante, la denuncia del Papa è un fatto veramente importantissimo e io credo che il Papa continuerà a battere su questo tasto e ritengo che sia un fatto estremamente importante che può anche promuovere un cambiamento culturale, come spesso è accaduto anche in passato in conseguenza delle posizioni assunte dalla Chiesa. L'ultima domanda che le faccio è questa: ovviamente siamo tutti molto preoccupati, assistiamo a quello che succede sul fronte migrazione. Da procuratore nazionale antimafia c'è il rischio o ci sono segnali concreti dell'infiltrazione della mafia anche nel traffico di migranti? Non ci sono segnali concreti nel senso che, diciamo, il traffico di migranti possa essere gestito direttamente dalla mafia né dal terrorismo, però che la mafia e che il terrorismo possano in qualche modo lucrare sul traffico di migranti è una possibilità molto concreta. Io intanto la ringrazio, grazie per essere stato con noi. Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia. I temi ovviamente sono tanti, questo degli impresentabili, per carità ci torneremo, anche se davvero stabilire una categoria precisa, un criterio oggettivo, qualcosa ci ha detto il procuratore di quello che può essere fatto, staremo a vedere se la commissione parlamentare antimafia stabilirà altri criteri riguardo ad alcune persone che sono finite nelle liste. Intanto che cosa facciamo noi? Andiamo a sentire il traffico e poi tornano i nostri lavoratori. Lavoratori! Ebbene sì, è il momento dei nostri lavoratori, coloro che ci scrivono via mail a 24mattino@radio24.it e poi noi li chiamiamo in onda per raccontare la propria professione. Oggi voglio salutare Giovanni. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Giovanni fa un lavoro secondo me molto molto meritevole. Fornisce assistenza tecnologica e informatica agli anziani. Questi uomini e donne antitecnologiche che si vedono proiettati in un mondo in cui la tecnologia serve. Che vuol dire, Giovanni, in concreto? Guarda, vuol dire che oggi diciamo la platea di coloro che devono utilizzare la tecnologia si è allargata e si è innalzata l'età media di chi ne deve usufruire. Pensiamo ai servizi informatici forniti dalla pubblica amministrazione, al fatto che i pensionati hanno la possibilità o addirittura in alcuni casi la necessità di scaricare il cedolino della pensione dal sito, oppure di ritirare il referto delle analisi fatte alla ASL tramite. E poi ci sono gli anziani che hanno figli e parenti all'estero, lontani. Devo scrivere una mail. Cos'è la cosa più complicata per un anziano? Generalmente quando vai da un anziano, cioè, cos'è la mail, andare su internet? Guarda, c'è una casistica molto varia. Ti posso fare questo esempio. Una signora simpaticissima che ha 84 anni. Fantastico. E che si occupa, diciamo, ha iniziato a occuparsi anche di teatro. Sì. Il gruppo di cui fa parte, come sistema di comunicazione, ovviamente usa prevalentemente le mail. E lei non aveva il computer. Fantastico. Ma nota bene, Alessandro, lei non aveva mai usato una macchina da scrivere. E quindi, invece se è dotata a 84 anni, l'hai dovuta dotare di computer. Esatto, e la cosa in questo caso più complessa è stato proprio l'uso della tastiera. La tastiera. La differenza fra il backspace, il tasto cancel per correggere una persona che è abituata fino a 80 anni a usare la penna è chiaro. Cosa banalissima. No, ma per nulla. Intanto complimenti a una signora che a 84 anni ha iniziato a occuparsi di teatro. Poi cos'è un'altra difficoltà? Ma guarda, le difficoltà ora a parte nell'uso, perché poi c'è chi magari ha semplicemente bisogno di raccogliere le foto che ha creato, oppure di scrivere qualche cosa, ma il punto è che le persone oltre una certa età non possono, secondo la mia esperienza, essere messe in un'aula e diciamo non possono essere aggredite con una formazione a 360 gradi mette tutti sullo stesso piano. E tu che fai? Quindi vai a casa loro, gli fornisci un'assistenza? Un servizio personalizzato, che è la cosa principale di cui hanno bisogno e di tanta pazienza. E allora Giovanni, facciamo così, hai un sito, qualcosa da promuovere? Sì, dillo. www.computerfacilefirenze.it computerfacilefirenze tutto attaccato.it Giovanni, grazie davvero, fornisce assistenza tecnologica e informatica agli anziani, oppure scrivete a noi se non avete capito, comunque è facile, computerfacilefirenze.it la nostra mail invece è 24mattino@radio24.it. Io devo dare la parola a un ascoltatore che però ci ha chiamato come ascoltatore, ma è anche un sindaco, è il sindaco di Cantù. Buongiorno, Claudio Bizzozzero, che tra l'altro in questi giorni è sui giornali per un'altra vicenda. Perché ci ha chiamato, sindaco? No, l'ho chiamata perché stavo portando i bambini a scuola prima di venire in comune, ascoltavo la sua trasmissione. Io non sapevo sinceramente di queste dichiarazioni che ho sentito in diretta quando l'avete trasmesse voi, di chi? Signor De Luca. De Luca. Ma a me, guardi, non sorprende più niente, quindi non mi sorprende affatto che ci siano dei cosiddetti impresentabili e che si stia lì a cavillare su cosa sia impresentabile oppure no. Questa non è una cosa sorprendente, accade sempre. Ma che il candidato del PD alla regione dica Campania, non votate. No, ma neanche quello vabbè, è ridicolo. Ma Padellaro dire, ma io piango, io mi preoccupo molto, sa di che cosa? Che tutti sanno che quando si raccolgono le firme, le liste dei candidati sono già bloccate. Ora non è possibile ma che queste sarebbero liste civiche di appoggio, cioè Renzi dice non sono la lista del PD, ma le liste civiche che appoggiano. Il problema è che le liste civiche che appoggiano i candidati non possono cambiare nottetempo, perché se cambiano nottetempo vuol dire che le firme sono state raccolte in bianco, che è una cosa gravissima, è un reato. Io spero che, sentito questo, ci sia un procuratore della Repubblica che apra un fascicolo e indaghi. Perché dice notte tempo non si può infilare nulla, ci vogliono le firme. Certo, interessante. Perché devo ricominciare a raccogliere tutte le firme e non lo posso fare durante però, la notte. Però sindaco, ma questo è un reato, una cosa gravissima. Ma no, ma è chiaro, ce l'ha segnalato e magari qualcuno ha ascoltato. Ho un minuto, sindaco, però lei ci ha chiamato, c'è una vicenda che ha riguardato Cantù, questa del bambino, una del saluto romano. Una vergogna assoluta. Ma lei vuole denunciare Repubblica? Io ho già fatto, guardi, ho già dato mandato al legale e prima di far questo contemporaneamente, per cui il legale prepara le carte e poi agisce contemporaneamente, ho segnalato all'ordine regionale Lombardia e all'ordine nazionale. Sì, mi sorprende che, siccome è accaduto che mi pare Rete 4 ha licenziato un giornalista che ha fatto una cosa è un'altra vicenda. Mi sorprende che Ezio Mauro, al quale io non ho scritto perché immagino che i giornali li legga da sé, non c'è bisogno che glielo scrivo io queste cose qua, non abbia preso provvedimenti contro questo suo dipendente. Perché lei dice non esiste una scuola di Cantù dove ci sia un bambino che fa il saluto romano, non esiste, è una buffa. Ma può esistere? No, a Cantù di sicuro no, perché io ho sentito tutte le direttrici, le quali ha sentito tutti gli insegnanti, questa roba a Cantù non è accaduta, e questo vuol dire gettare fango su una città, semplicemente perché un giornalista ha fatto un sillogismo. Siccome c'è un sindaco, che sono io, che mi considero democratico, che autorizza le feste di partito di tutti i partiti, fin tanto che un partito non è messo fuori legge, non legge nazionale, e quindi anche Forza Nuova a Cantù può fare la sua festa, perché non sono io a decidere se sia illegale oppure no, ed è legale fino a prova contraria. Ha fatto questa associazione. No, va bene, sindaco, devo chiudere però, perché sennò sforo. La ringrazio per la chiamata, sindaco di Cantù, Claudio Bizzozzero. Ciao. 24 mattino.